fatto il tragico errore di invitare i Light the Bob e i No Chappy Bourgeois, che suonano anche in questo palinsesto dell'Ostepalusa, in una manifestazione a Recanati, che è il mio paesello, Recanati, dove c'è la in cui abbiamo suonato Light the Bob, No Chappy Bourgeois, Lady Stone, che è una band noise di Oslo, e i Capeal, che sono una band, diciamo, di electropop surreale italo-francese, perché è composta da me e da un mio complice che vive in Francia ed ha un mestiere che è assolutamente rispettato e che ogni tanto, quando torna di qua, è quello più involto in questa esperienza che portiamo avanti da lontano 96. Però proprio a causa della sua distanza geografica ho deciso di inaugurare il mio progetto solista, che è la Tosse Grassa. Io ho bisogno di fare cose balorde senza dover aspettare per forza lui a Natale, e quindi sono partito con questo nuovo progetto, e pertanto i ragazzi dello ZK, grazie alla complicità dei Light the Bob in particolare, mi hanno invitato la prima volta a suonare, è stato subito amore. Live mi accompagno con di solito due membri del Radical Macabre Dance Commando, che è una via di mezzo tra guardia d'onore, guardia del corpo, ordine monastico collegato al culto della Tosse Grassa. Abbiamo più di 20 membri, pertanto ogni volta, in base a ogni funzione che facciamo, in base alla loro disponibilità, scegliamo due diversi dance commander, così li chiamiamo, per realizzare insieme a me la funzione. In pratica sono dei chierichetti d'azione. Un dio cane generico, senza andare troppo su blasfemo. Che in egiziano si dice Anubi. Attualmente la Tosse Grassa sta seguendo lo spirito della discografia degli Slayer. Per cui il primo album TG1 è quello più acerbetto, così un po' ingenuo, che fa tutte le prime idee che ti escono fuori dalla testa. Il secondo è quello quasi progressivo, con i brani più lunghi, più melodici. Il terzo è il Regno Blanco. Quindi aspettatevi il nostro regno. Non lo faccio io sto stesso percorso, e per questo è nata una sorta di concorrenza. Noi non è che siamo anticlericali, siamo altro clericali. Cioè, siamo d'accordo all'idea che ci sia una teocrazia, a patto che non sia quel clero lì a comandare. Ci meritiamo noi l'8 per 1000. Grazie, stasera solo la foto insieme, spero la prossima volta qualcosa di più.